studi numerosi, riprendiamo i nostri lunedì all'insegna della storia locale, non solo, perché abbiamo qui due ospiti che vengono da Mantova. Abbiamo un utente, lasciamolo lì. Sì, perché la biblioteca rimane aperta, chiaramente con i servizi, quindi può capitare che qualcuno venga a prendere in prestito qualcosa. Ritorniamo di nuovo ad occuparci di Andreas Hofer, questa volta però visto con un occhio diverso, l'occhio appunto del professor Gozzi, ed è accompagnato questa sera dal dottor Dina, e quindi da una prospettiva non locale, ma appunto una prospettiva di Mantova, quindi che appartiene a un percorso storico finale, diciamo, ecco. E questo libro è nato anche all'interno del Circolo Virgiliano, che era un'associazione attiva, molto attiva, ecco, qui da noi, in Alto Adige, che però ha smesso la propria attività con nostro dispiacere, ma siamo contenti questa sera anche di poterla, di poter ricordare, ecco, quello che è stato fatto anche attraverso quest'opera, che ha avuto tanti riconoscimenti, non solo qui, ne parlava oggi anche il sindaco Spagnoli, che mi ha telefonato ringraziando per questa attività e dicendo appunto, ribadendo anche la stima per questo lavoro e per il professor Gozzi. Ma diciamo che per noi è un'occasione di ritornare indietro con quello che è stato l'anniversario del 2009, con un percorso che questa biblioteca aveva fatto, ed è per quello anche che di solito noi riportiamo anche delle bibliografie, esponiamo qualche documento che è qui presente in biblioteca, qualora uno degli utenti avesse piacere così di approfondire le tematiche che vengono illustrate nel libro di questa sera, Per Dio, per l'imperatore e per la patria. E si diceva che è un titolo non a caso. Veramente. Vero? E poi scopriremo appunto nel corso della serata perché. Ne approfitto per segnalare altri due incontri. Mercoledì mattina alle ore 10.30, gli animali nella nostra vita, con Eugen Galasso, Franco Latino. E poi invece giovedì 17 alle ore 18 sulle tracce di donne famose in Alto Adige con Claudia Dander dell'Associazione Grafologica Italiana, la sezione di Bolzano. Partiamo così, no? Sulle sedie avete un modulo di iscrizione, chi avesse piacere, ecco, lo può compilare e lasciare qui alla nostra Benedetta, che è la bibliotecaria che fa servizio qui da noi la sera, e così abbiamo la possibilità di contattarvi e aggiornarvi sulle nostre novità e i nostri servizi. Grazie ancora. Grazie. E buon proseguimento a tutti. Mi alzo un momento. Mi alzo un momento per vedervi tutti. Dopo sarò un po' più. Devo ringraziare la dottoressa Valeria Treviran per questo invito a cui tengo moltissimo. È anche l'occasione per rivedere degli amici che è un po' di tempo che non vedo, il Circolo Culturale Alto Adige, il Circolo Virgiliano. Purtroppo per questioni varie ha dovuto sciogliersi. Quindi mi rimane poi il dispiacere di non potervi rivedere ogni anno come ero abituato a fare. Circolo culturale molto importante, che ha ricordato non solo la terra di origine, la Padania, Mantovano, insomma, perché qua quasi tutti vengono da Mantova, credo, o comunque dai dintorni, e ha portato un segno della propria cultura anche all'interno della città di Bolzano. Hanno partecipato in moltissime occasioni alle varie manifestazioni culturali della città, ne hanno improvvisate alcune, hanno portato un tocco di mantovanità in questa città con una festa del risotto che ha riscosso per anni i favori di gran parte di Bolzano, ma non solo di lingua italiana, o sbaglio, proprio di estrazione tirolese autentica. Nel 2009 cadeva l'anniversario dell'insurrezione del Tirolo, l'insurrezione antifrancese e antipadrese. Anche loro, il circolo di Viviano Otto Adige, ha voluto partecipare a questo grande evento, questa grande commemorazione, unendosi ai festeggiamenti indetti dalla regione, dalla provincia e dal comune. Se mi consente, unica in italiano. unici in italiano, poi questa fa, è una cosa che fa veramente piacere. È chiaro. E hanno scelto come scrittore il sottoscritto. Si sono presentati a Mantova un anno prima, in estate, e mi hanno convinto ad accettare l'incarico. Io sono uno studioso delle tradizioni mantovane, quindi ho scritto saggi, tutti inerenti alle tradizioni mantovane, padane, poi allargate anche al territorio nazionale. Per me era una cosa inedita, Hofer, pur conoscendolo così per aver visto molte manifestazioni, eccetera, per me è una cosa, ma ho dovuto accettare, è talmente alta la stima per questo gruppo che non mi sono sentito di dire no. È nato questo libro che ha trovato fortuna, ecco, questa è una cosa che mi fa veramente piacere, perché non ci credevo all'inizio, perché io ho voluto studiare Hofer dal punto di vista umano, non dal punto di vista delle battaglie. È tutto descritto con molta correttezza per gli avvenimenti storici, ma accanto ad ogni avvenimento storico ho cercato di vedere Hofer uomo, di vedere cosa l'ha spinto ad affrontare un'iniziativa di quel tipo, un'iniziativa immensa, una vera guerra, come dopo sentirete andando avanti quei discorsi. È una cosa che è stata apprezzata, questo l'aver studiato Hofer come Montanaro, che è nato e vive in mezzo ai suoi monti e che per la libertà del suo paese ci ha cercato di affrontare questa avventura difficile, cruenta. È stata apprezzata questa idea, perché per esempio all'Università di Roma, la Tor Vergata, il libro è stato, alcuni passi del libro sono stati letti, e naturalmente dopo nelle telefonate che mi sono arrivate ho capito che è piaciuto. Mi auguro che anche voi andiate via oggi da questo breve incontro con l'idea di un libro buono. Tra le altre cose devo segnalare che sono arrivati i nostri amici con molti libri, quindi se a qualcuno fa piacere tornarsene a casa col libro, libro non è in vendita, ma è un omaggio che farà l'ex circolo Virgiliano Alto Adige ai presenti. Naturalmente io farò in modo che abbiate la mia firma anche sul volume. Bene, non mi resta che augurarvi una felice attenzione al libro, non un divertimento, ma comunque anche una certa partecipazione, perché mi interesserebbe arrivare ad un dibattito anche, se qualcuno è intenzionato a farlo. Grazie della presenza. Hofer arriva a Mantova in catene, alle mani e ai piedi, il 5 febbraio 1810. L'hanno catturato l'esercito francese, ben 600 soldati sono andati a catturarlo in Alta Passeria, a 1500 metri d'altezza, dove il nostro eroe aveva trovato rifugio in una capanna, la Pan Hütte. Spero di pronunciarlo bene in tedesco, perché non mi appartiene come lingua. L'hanno catturato insieme alla moglie, a un figlio e a un amico, ma dopo arriveremo anche a questo fatto. Velocemente è arrivato a Mantova, perché a Mantova doveva svolgersi il processo destinato a condannarlo a morte per volontà di Napoleone. Napoleone ha mandato un dispaccio, come se sentiremo anche più avanti, dove non lasciava dubbi il dispaccio: dovete subito formare una commissione militare, condannare Hofer, e nel giro di 24 ore Hofer deve essere messo a morte. Quindi era un processo farsa un po'. Come ripeto, è arrivato il 5, la sera del giorno 5, lui non ha mai visto Mantova, Hofer, perché le carceri dove è stato sistemato immediatamente stanno all'arrivo di un ponte, il ponte dei mulini, che immette alla città. Il palazzo dove lui ha avuto il processo, che è Palazzo d'Arco, è appena al di là di questo ponte. In pratica lui nel suo giro di Mantova ha fatto un ponte. Ponte bello, se vogliamo, il ponte dei 12 apostoli, perché c'erano i mulini, 12 mulini che sfruttano un salto fra il lago superiore il lago di mezzo, un salto di 5 metri circa, e questi 12 mulini erano allineati. E quindi Hofer semmai ha sentito solo il rumore di questi mulini, delle macchine che andavano. Lui Mantovano non l'ha mai vista. Il giornale si limita a dire, quando, a suo arrivo, si limita a dire dunque, vabbè, era l'altro foglio. Ecco, sino dal giorno 5 corrente, parlo della Gazzetta di Mantova, non aveva detto niente che sarebbe arrivato, nessuno sapeva niente di questo viaggio. Fin dal giorno 5 corrente, sotto scorta della reale gendarmeria, fu qui condotto Andreas Hofer, detto Barbon, il quale fu preso su di una montagna in Passiria. Tosto fu che condotto assieme ad un compagno nelle prigioni militari di Cittadella, di Porto, proprio lì all'inizio del ponte. Non era una prigione severa, però era una delle tante prigioni che c'erano a Mantova in quel momento. Nelle prigioni militari di Cittadella di Porto, e tuttora trovarsi guardato a vista. Ebbene, non è da pensare che i cittadini sapessero di questo arrivo. È stato fatto tutto in fretta e furia, perché da Bolzano a Mantova addirittura viaggiavano quasi sempre di notte, con il pericolo che qualcuno tentasse di andare a liberare Hofer. Siamo in un periodo di carnevale, e quindi c'era una raccomandazione da parte dei francesi di fare dei grandi festeggiamenti per il popolo, così la loro attenzione andavano rivolta al carnevale incombente e non più al passaggio di Hofer. La strada è tutta, perché dopo su Hofer sono nati i fiori della leggenda, quindi in ogni tappa ci sono delle situazioni che andrebbero raccontate, ma non voglio togliervi il piacere anche di leggere, adesso non potrei raccontarvelo tutto il libro, ma ci sono delle cose belle anche durante il viaggio. Di sicuro sappiamo che i mantovani l'hanno accolto subito con cuore generoso. C'è stato un entusiasmo, e qui è una delle tante cose che non sappiamo spiegare. Come mai i mantovani sapessero e attendessero l'arrivo di questo eroe per fare delle grosse manifestazioni. Addirittura c'è stata la raccolta tra i nobili del paese di 5.000 scudi. Io non ho fatto il conto, il passaggio in lire di questa cifra, però chi l'ha fatto, ed è l'autore di un altro mantovano che ha scritto un libro che li avete, Amanto in catene, Zomanto in banden, che poi è il primo verso dell'inno del Tirolo, ebbene dice che è una cifra astronomica. Questo non arrivo a pensarlo, perché nel momento in cui Hofer arriva a Mantova è un disastro economico. Un po' gli assedi dei francesi, gli assedi degli austriaci, le epidemie che sono successe dal 97 fino ai primi dell'Ottocento, il colera, una forma di colera, i continui straripamenti del Mincio, non possono aver portato che miseria nella città. Quindi pensare che una cifra astronomica venga offerta al generale della guarnizione di Mantova, della fortezza, che è Bisson, in questo momento non è da pensare. Bisson però è uno che conosce Hofer, perché Hofer nella prima battaglia che ha sostenuto alla testa dei suoi Schützen per la conquista di Innsbruck, nella fortezza di Innsbruck ha proprio incontrato Bisson. Naturalmente Hofer ha vinto, è una delle tante battaglie vinte da Hofer, e questo Bisson si era isolato nell'ultimo caposaldo della città. Aveva paura naturalmente che finisse male per la vita di tutti i soldati, quindi ha mandato un messo a Hofer dicendogli: io abbandono le armi se tu mi lasci andare con i miei soldati. Hofer ha accettato questo e Bisson gli sarà riconoscente tutta la vita. Purtroppo non poteva accettare i 5.000 scudi, perché lui è un soldato di Napoleone, ha detto. Ma non solo per questo, perché intendeva essere utile a Hofer in un altro modo. Infatti è stato, diciamo, in quei giorni pochi, 15 giorni che ha vissuto nel carcere, possiamo dire che l'ha trattato veramente bene, gli ha dato delle candele per illuminargli le ore di buio, un buon vitto, gli ha lasciato un prete sempre a disposizione, uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca, insomma è stato un carcerato di lusso, però non poteva, del resto Bisson non sapeva niente del fatto che Napoleone lo voleva morto ancora, quindi sperava sempre che si salvasse. Diciamo che Mantova da quel giorno continuò a pregare per quell'uomo infelice, e furono tante le manifestazioni che anche in seguito sono state date, proprio manifestazioni d'affetto, di stima, di simpatia per quest'uomo che si è battuto per la libertà del suo paese. A Mantova, dove il gagliardo generale Barbone, epica figura da ballata popolare, trovò tragica fine sotto il piombo del nemico francese, non vi fu nel tempo commemorazione storica in cui Hofer non venisse simbolicamente associato agli eroici martiri di Belfiore, alto esempio di rispetto verso chi ha dato la vita per un ideale di libertà. I martiri di Belfiore, caduti per mano del governo austriaco nel dicembre del 1852, e Hofer, caduto per mano dei francesi nel febbraio del 1820, nella tradizione mantovana sono considerati con uguale dignità. La Gazzetta di Mantova, nel primo centenario della morte del grande eroe della Passiria, valuta alla stessa stregua il martirio di Belfiore con quello di Cittadella e conclude: Hofer, caduto nel nome e pel diritto di tua gente, Mantova ha un fiore anche per te oggi. Mantova per te oggi coglie un fiore rosso di sangue in fermento ai piedi del tuo calvario irto di austriache forche. Sempre sullo stesso quotidiano, il 1 dicembre 1978, Pietro Genovesi, commemorando i martiri di Belfiore, ribadiva il concetto con una testimonianza saggia e veridica dal titolo Andreas Hofer, protomartire in Mantova. Queste le parole: la pietra, che segna il luogo dove Andreas Hofer morì in cittadella di Mantova, fucilato dai francesi in età di 43 anni, sta in petto di Belfiore, di là del lago, dove vennero impiccati i nostri martiri. Ad entrambi si conviene la dedicatoria scritta sul basso di Belfiore: cadendo rovesciarono il carnefice. Anche se l'uno, il tirolese, identificando nella casa d'Austria la libertà, cadde sotto il piombo dei francesi, i nostri, invece, identificando nella stessa casa d'Austria la tirannia, vennero strangolati dal boia imperiale. Questo senso vuole avere il titolo Andreas Hofer, protomartire in Mantova. In questo senso, Andreas Hofer precede i nostri martiri ed è il primo martire dell'Ottocento mantovano. Nel 1984, Renzo Dallara, ricordando il soccorso dei mantovani all'eroe appena giunto in catena a Mantova, scrisse ancora: Hofer viene adottato da una certa Mantova, si fanno pressioni per ottenere una sentenza clemente, si raccolgono con una sottoscrizione 5.000 scudi nella speranza di ottenere il riscatto del prigioniero. Gli stessi mantovani si preoccupano che Andreas abbia nel processo un difensore, l'avvocato Gioacchino Basevi, il quale annota in un diario la straordinaria esperienza per la quale egli passerà alla storia. Per Hofer, scriverà Basevi, i mantovani hanno proprio perso la testa. Alcuni lo definiscono un eroe ed altri un santo, e non vi sono più molti che ardiscono di sentire perché nei ceti alti si rischia ostracismo, negli altri le bastonate o peggio. Grazie. Questo non ho pensato di presentarlo, ma questo è un amico che ha uno studioso di storia, quindi ho piacere che alcuni passi del mio libro non sia io a leggerli, ma l'amico che ho vicino. Dopo due secoli dell'arrivo e quindi della morte, della fucilazione di Hofer, Manto non ha mai dimenticato Hofer. C'è sempre il maestro il 20 di febbraio di ogni anno che prende su i suoi scolari, e sono tanti questi maestri, prende su i suoi scolari per mano, li porta al cippo di Belfiore, dove arrivano gli Schützen, fanno una grande festa, arrivano con i loro abiti variopinti, coi capelli piumati, li precedono le fanfare, le bande, ci sono i cori che cantano. È una straordinaria festa popolare che a Mantova non si verifica in un altro giorno dell'anno. Non si verifica nemmeno per la commemorazione dei martiri di Belfiore. I martiri di Belfiore sono un po'... sono letture fatte con parole spesso molto, molto pesanti per i bambini. Sono incomprensibili. Si parla di fucilazione, di piccagioni, quindi di martirio. Il bambino non le accetta. Le scuole vanno molto più volentieri al cippo di Hofer, oggi Parco Hofer, dove si lasciano andare, corrono in mezzo alle fanfare, corrono a stringere gli abiti di questa gente, che sono straordinariamente belle. C'è sempre almeno un maestro che arriva, e poi c'è tutto l'insieme della cittadinanza. Ci sono tutti i pensionati, quella mattina non sono in piazza delle Erbe a Mantova a vedere il mercato, sono tutti al cibo di Hofer, perché là è un grande divertimento. E poi da quel punto parte una grande sfilata, tutti in fila, tutti a cantare, a marciare sotto l'inno dei tirolesi, che è bellissimo, e quindi arrivano in città. È una grandissima festa. Per i mantovani, quindi, che hanno bisogno di credere nella giustizia e nei valori della libertà, Hofer è un nome che non verrà mai dimenticato. E come Ugo Donato, del resto, in un bellissimo saggio scritto di Hofer, la leggenda nei secoli tramanderà le eroiche gesta, e ai monti e alle rocce del natio Tirolo la leggenda si abbarbicherà, le valli e i ghiacciai giganti e i luoghi tutti ripeteranno il suo nome glorioso, e i pargoletti e i fanciulli l'apprenderanno. L'immagine cara di lui aleggerà d'intorno e a tutti dirà: amate la patria vostra come io l'amai, amatela come si amano le cose più caramente dilette. E se un giorno chiedesse a voi il martirio, concedetelo sorridenti. Bello il morir per la patria come io morii, bello è l'aureola del martirio al par di quella della gloria. Ecco, queste sono parole che a me sono rimaste impresse saldamente nel cuore, mi hanno aiutato, l'ho scritto anche agli amici di Bolzano quando ancora ero tentennante nell'accettare o meno l'incarico che mi avevano dato, ma di fronte a queste parole nessuno può rimanere indifferente, e quindi ho accettato con tanta simpatia e con tanto coraggio, devo dire, di fare il libro che ha un titolo: per Dio, per l'imperatore, per la patria. E come ha detto la nostra ospite, è un titolo che finalmente ha un significato. Tante volte i titoli che riportano i libri sono insignificanti, vai a leggere tutto il testo, non c'entra assolutamente niente, è una vetrina, una bella mostra. Questo invece è importante, perché Hofer tutto quello che ha fatto l'ha fatto per servire il suo imperatore, che è Francesco d'Austria, per difendere i principi della Chiesa, in cui credeva moltissimo, quindi per Dio e per l'imperatore, e per la patria, che non è la nazione tedesca in generale. La patria è il Tirolo, la patria è la Passiria per lui. La patria è il Sandoff, dove lui lavora, è San Leonardo, il paese dove vive insieme all'altra gente, dove festeggia i suoi santi, dove crede nelle tradizioni. Questa è la patria di Andrea Hofer, di cui oggi andiamo a discutere. Il piccolo Andreas cresce in questi luoghi dove la mano benedicente del creatore ha disegnato con arte altissima il paesaggio alpino, coronandolo con note musicali armoniosamente fuse. Qui il sole, che splende sempre come nel primo giorno del mondo, fa scintillare le nevi perenni con luci magiche e fantastiche, quasi uscenti da un miracoloso caleidoscopio. Qui, alzandosi la nebbia, che talora maschera in modo arcano le bellezze del creato, torri e piramidi rocciose, guglie isolate appuntite, pinnacoli ripidi e slanciati si stagliano sull'azzurro cupo del cielo. Sembrano mani dioranti levate verso l'infinito. Qui una natura pura, intatta, grandiosa, tenera e profumata, vive in un silenzio misterioso dove è facile avvertire la presenza di spiriti fantastici. Fate buone, folletti festevoli, nani dispettosi e sospettosi, esseri impalpabili e invisibili, liberi e lievi come la brezza. Su queste montagne è facile capire che Dio è vicino. Più si sale, più la luce diventa accecante. In ogni stazione superiore l'animo si libera dai sentimenti materiali e si arricchisce spiritualmente tendendo alla contemplazione e alla glorificazione del divino. In questi luoghi, dove l'aria sa di bosco, dove i corvi veleggiano liberi nel vento e calano a ventaglio lungo le creste, dove i fiori colorano i prati con emozionante cromatismo, per tutti è più agevole raccogliersi in preghiera e fare i conti con la propria vita. Muovendosi in questo paradiso, Andreas cresce virtuoso e buono, sempre più innamorato della sua valle, contornata di diademi di rara bellezza e rallegrata dal suono festoso dello Jodler che rimbalza di croda in croda. Impara ad amare i tramonti che tinteggiano le vette di rosa e di viola, scopre la voce di acque cristalline che segretamente accarezzano la natura. Acque di ghiacciaio che scendono da azzurre caverne aperte nelle vedrette, acque serpeggianti su livide bancate prima di sparire con freschi scrosci nelle profondità verdastre di un crepaccio. Acque che sanno di sasso e di muschio, che si allungano come patina argentea su versanti di rocce lichenose fino al balzo bianco di spume di una cascata. Grazie. Su queste montagne, ha letto il nostro lettore, è facile capire che Dio è vicino. Ofer avverte costantemente questa presenza e non si vergogna di pregarlo al mattino a partire dalle ore 5 nella vicina chiesa, non a San Leonardo, ma nell'altra chiesa vicina, in San Martino. Avverte che è necessario pregare Dio perché conservi questa bellezza, questo mondo arcano, questa natura. Ofer si offre completamente al Signore e lo rassicuro giorno dopo giorno che difenderà tutti i principi religiosi che pian piano tutti i ministri della Chiesa del Tirolo gli hanno insegnato. I ministri della Chiesa hanno in Ofer un moto di straordinaria importanza. Cosa? Il prete, ecco là la prima e l'ultima autorità di tutta la valle. Ogni affare spettante alle diverse famiglie è recato innanzi al suo tribunale e tutti i suoi consigli sono seguiti con una ingenuità quasi fanciullesca. Esso è l'unico maestro che essi hanno nel tempo della loro vita e il consolatore che preferiscono avere in punto di morte. Per tal modo il popolo tirolese ha mostrato in ogni tempo di avere sommamente a cuore gli interessi della Chiesa e di sentire profondo dolore per tutto ciò che potesse minimamente lederne i diritti. Ofer ogni giorno alle 5 del mattino si reca a pregare dinanzi all'altare del Sacro Cuore di Cristo presente nella vicina chiesa di San Martino. È un appuntamento a cui non rinuncia nonostante le tempeste di neve che d'inverno infuriano nella passeria. Il culto del Sacro Cuore è profondamente radicato nei petti dei tirolesi. Immedesimandosi con la passione del Salvatore, i fedeli si ricordano che è possibile ottenere la salvezza nel giorno del giudizio finale emulando il Redentore nella sofferenza. Andreas Ofer si manifesta dunque come un'anima cristiana ardente d'amore per Dio, sinceramente votato a testimoniare con forza la sua affezione incondizionata al clero. Per Dio e per la Chiesa è disposto anche a combattere e morire. Nella guerra dell'anno 9, dopo la grande vittoria sui bavaresi per la conquista di Innsbruck il 15 agosto 1809, portato in trionfo dalla folla delirante, con lo spirito di un santo eroe rifiuta gli onori che il popolo ha in serbo per lui. Questa è la sua unica invocazione. Non gridate, pregate, miro il cielo e non voglio trionfare di un nemico terrestre. In ginocchio e prendete i vostri rosari. fa zittire i suonatori di violini e di cetra che gli dedicano musiche e canti e aggiunge: pregate per me, debole e poveretto. Dite all'Onnipotente quanti cadaveri abbiamo seminato sul monte e nella valle. Dite della nostra fame e delle nostre veglie angosciose. Dite quanti prodi tiratori più non tireranno, più non canteranno. Dio solo può salvarci. Ecco, dei tre elementi che compaiono nel mio titolo, per Dio, per l'imperatore e per la patria, due li abbiamo esaminati, per Dio e per la patria. Il terzo è per l'imperatore. L'imperatore ovviamente è Francesco della Casa d'Austria, il quale governa in questo periodo, ormai da anni governa il Tirolo per mano del governatore Conte Brandis. Francesco, direi, è un imperatore buono, è un imperatore molto vicino ai tirolesi, spesso e volentieri abbandona Vienna e li viene a trovare. È un imperatore astuto, perché sa che ha bisogno dei suoi tirolesi per difendere dei confini che sono molto lontani dalla patria sua. È un imperatore che concede due cose importanti ai tirolesi: non pagano tasse e non devono assolvere il servizio di leva militare. Due cose importantissime, se pensate che questi montanari devono lavorare i monti, quindi le braccia dei giovani sono importantissime. Quindi il fatto di togliere il servizio di leva militare, questo però non significa che non siano pronti alla guerra, perché loro hanno l'obbligo di armarsi, di diventare abili nella battaglia, perché si riuniscono in compagnie di Schützen, e hanno il privilegio di poter eleggere i capitani di queste compagnie, scegliendoli proprio all'interno di queste compagnie tra gli uomini di maggior personalità e di maggiore abilità nel mondo bellico. Hofer cresce, è orfano però all'età di tre anni, orfano della madre. A 4 anni dopo diventa anche orfano del padre. Il padre si fa in tempo a sposarsi, ma la matrigna non è in grado di condurre a buon fine il Sandoff, che va in rovina, si indebita paurosamente. Per fortuna hanno convinto Hofer a scendere a valle nei dintorni di Kles per imparare la lingua italiana, e intanto diventa abile anche nel commercio. Questo in pratica è il lavoro che svolgono gli Hofer su Impassiria: trattano il bestiame, portano a valle i latticini e portano sui monti il vino. È questo lo scambio, ma naturalmente bisogna essere abili anche in questo lavoro. E Hofer, già molto molto molto giovane, si dimostra abilissimo, ma soprattutto è talmente buono e amato da tutta la Passiria che in breve tempo il suo Sandoff torna a rifiorire e quindi a rimettersi in carreggiata, al punto che Hofer si sposa e si sposa con una giovane, la Ladurner, Gertrude Ladurner, che incontra un po' più a valle della Passiria. È una donna molto timorata di Dio, molto innamorata del marito, di cui apprezza non solo la prestanza fisica, ma anche il silenzio che tante volte esprime, che sa esprimere tanto, il silenzio fra un coniuge e la moglie. Molto rispettosa del marito, gli dà 5 figli in brevissimo tempo. L'ultimo di questi figli è Giovanni. Giovanni avrà purtroppo il dispiacere di vedere la cattura del padre. Quando sarà catturato in Alta Passiria il 18 gennaio 1810, e erano 600, ve l'ho detto anche prima, i soldati che sono andati a braccarlo, e altri 900 erano a valle a custodire tutte le uscite, le possibili vie di fuga. È stato così veloce questo agguato che il bambino non ha fatto in tempo a mettersi gli stivali e ha dovuto scendere dall'altezza di 1500 metri fino a San Leonardo a piedi nudi, e sono 4 ore e mezza di cammino il tragitto, nella stagione buona, ma qui parliamo di gennaio, quindi era tutto innevato e ghiacciata la strada, e quindi si è congelato i piedi ed è rimasto claudicante tutta la vita. Questo è il grande dispiacere che ha dovuto patire, e l'infermità. Ebbene, la parola a Riccardo, scusate, io vado un po' a braccio e quindi dopo dobbiamo di volta in volta. Tutti i sogni del Barbone della Passiria si infrangono d'improvviso con la calata di Napoleone in Italia. Il generale francese, eletto imperatore nel 1804, avanza e infuria come una tempesta, accompagnato dal grido «Libertà, uguaglianza, fraternità». Sono parole nuove per gli italiani che gli credono, lo stimano e corrono ad alimentare le file del suo esercito. L'Austria teme di perdere il controllo del suo regno e invita i tirolesi ad armarsi in vista di un confronto con la Francia. A norma delle leggi del 1511, il popolo tirolese non esita a preparare le sue compagnie di Schützen per difendere i confini. Hofer è tra i primi ad essere acclamato per correre a sbarrare la strada al nemico. Scrive Karl Paulin: presso i contadini tirolesi solo uno del loro gruppo, come era Andreas Hofer, poteva ottenere la loro fiducia, stima ed obbedienza. Hofer sapeva trattarli ed ascoltarli perché ne condivideva l'attaccamento alla patria, alla religione, alla casa d'Austria, con l'ostinata fedeltà delle persone semplici. Fatto? Sì. Allora. Scusa. Sì, come dicevo prima, questi tirolesi non erano abituati alla guerra e quindi avevano bisogno di un condottiero che fosse veramente abile. Hofer conosceva perfettamente il territorio, riuscì ad adescare i nemici, li attirava in imboscate e poi addirittura non combattevano neanche coi fucili, facevano franare i monti su questi. E quindi nei primi mesi di combattimento contro i francesi ha avuto delle vittorie al punto tale che i francesi non sono entrati dalla parte del Tirolo, l'hanno abbandonato per il momento e sono andati a combattere nelle pianure della Moravia. Qui si sono scontrati due grandi eserciti, quello di Francesco e quello di Napoleone. Là Napoleone era veramente un asso, là sapeva dare il meglio di se stesso come generale, e la sconfitta è stata terribile per Francesco. Vi dico solamente qualche cifra: 15.000 morti, sto parlando della battaglia di Austerlitz in Moravia, 20.000 prigionieri, montagne di feriti, 200 cannoni e 400 carri d'artiglieria ceduti ai nemici. È stata una disfatta tale, una c'erano le montagne rosse, dicono gli esperti che hanno studiato il momento, tanto era il sangue dei morti, dei caduti, e questo naturalmente mise un po' in agitazione l'imperatore Francesco, che ha corso subito ai ripari temendo per le stesse sorti del suo impero, ha cercato l'abboccamento con Napoleone e sono arrivati alla pace di Presburgo, pace naturalmente che è tutto a favore di Napoleone. Perché? Perché in questa pace è stato ceduto il Tirolo a Napoleone, e Napoleone ha voluto anche 9 milioni di franchi, di franchi come indennizzo bellico. Napoleone ha ceduto il tutto alla Baviera, a Massimiliano Giuseppe, re di Baviera, che era suo alleato e lo aveva aiutato molto in questa vittoria. Quindi ha ceduto tutto il patrimonio in franchi e anche il Tirolo. Lui aveva, del resto non aveva bisogno Napoleone di avere il Tirolo, lo aveva ceduto alla Baviera, qualcuno dice sperando che mantenesse inalterati i privilegi che i tirolesi avevano sotto Francesco, e dice che fu lo stesso Napoleone a insistere presso il re di Baviera perché concedesse gli stessi diritti e privilegi. In effetti dopo qualche anno è stato tutto, è sfumato tutto, come dirà adesso Riccardo. Il nuovo governatore del Tirolo, che succede al conte Brandis, il conte Carlo d'Arco, pare animato da buoni propositi e assicura al popolo che i nuovi governanti rispetteranno i diritti che i tirolesi godevano sotto l'Austria. Pare che lo stesso Napoleone abbia imposto questa clausola all'alleato Massimiliano. In realtà il Tirolo avvertì immediatamente un disagio materiale, morale e finanziario con le leggi dei nuovi occupanti. Scrive Alberto Mosca: per il Tirolo iniziarono anni difficili. Il governo bavarese, accanto ad innovazioni che potevano considerarsi positive, per esempio la soppressione di dazio, pedaggi e decime, promosse nuove tasse, per esempio sul vino prodotto e venduto, e il testatico, tassa per mantenere le truppe bavaresi sul luogo. Il clero e la chiesa subiscono oltraggi in posizioni assurde. Il parroco diventa un impiegato statale. I vescovi non possono nominare di persona i loro ministri perché il governo rivendica a sé il diritto di nominare i curati nelle sedi rimaste vacanti. I preti, cacciati dalle parrocchie, vagano qua e là per i monti in cerca di rifugio e celebrano nascostamente le funzioni, messe, battesimi, estreme unzioni. I bavaresi impongono il divieto di celebrazione delle feste non iscritte nel calendario ufficiale bavarese. La sospensione del lavoro in occasione di una festa non concordata è un delitto multato e punito con il carcere. I nuovi governanti regolano a loro piacimento lo svolgimento di una cerimonia religiosa, di una processione, di un canto liturgico, del suono stesso delle campane. Sono eliminati chiese e conventi, gli ex templi sono profanati, derubati dei loro beni e dei loro ori. Ecco, mi sembra chiaro, insomma, che la situazione cambiò molto e in modo radicale anche in giro di pochissimi anni. Il Tirolo, libero e felice nel passato recente, così fiero dei governanti fino al 1805, cade in una depressione allarmante. Depressione che continua perché in questi anni, pian piano, si arriva all'idea di un servizio di leva obbligatorio. E questo è allarmante proprio. Servizio di leva che non è di pochi mesi, come che capitava per le compagnie di Schützen che si allenavano e si destreggiavano nella guerra. Si comincia con 3 anni e si arriva addirittura a 8 anni. Cioè portano via i giovani dalle loro terre, queste braccia robuste, per 8 anni in fila. E quindi siamo al punto di vedere oramai tutta la popolazione tirolese che non ne può più, è pronta a sollevarsi. E Francesco e i suoi figli, il Granduca Giovanni e il Granduca Carlo, capiscono che la situazione è giusta per dare una manforte alla sollevazione. E quindi c'è Hofer, viene chiamato a Vienna e dice: guarda che l'imperatore, parla naturalmente con il Granduca Giovanni, l'imperatore è pronto a darvi una manforte nel caso che la popolazione si sollevi contro i bavaresi. Però l'azione deve partire dai tirolesi, altrimenti l'Austria non può entrare in conflitto. Hofer, torno a ripetere, è considerato l'uomo, pensate che è partito capo della sua compagnia, una ventina di Schützen, come caporale, è diventato in breve tempo capitano e adesso viene eletto generale delle truppe tirolesi al fianco di quelle dell'esercito regolare d'Austria. Non starò qui a raccontarvi le imprese, sono moltissime, nel libro sono dettagliate al massimo, però dirò voglio porvi una domanda che è venuta spontanea a tutti gli studiosi: fu questa una vera guerra? Oppure, come dicono in Francia, per esempio, molti studiosi d'Oltralpe, non fu invece una sterile esplosione di fanatismo? Una rivolta mal concertata e portata avanti da bande di briganti, come qualcuno fuori d'Italia crede. Fu una vera guerra? Questa è una domanda che dobbiamo porci subito prima di andare ad analizzare altre cose. E la poniamo con Riccardo. Così rispose Maurice Grandjean. Fu lo sforzo potente di tutto un popolo che abbracciò le armi per difendere le sue tradizioni, il suo suolo e la sua libertà. Fu un'iniziativa bellica potente il cui bilancio si può così riassumere: il Tirolo, tre volte liberato dall'invasore, Innsbruck, tre volte riconquistata dalle mani dei bavaresi o dei francesi, centinaia e centinaia di battaglie cruente combattute anche all'arma bianca, migliaia di morti, 8.000 prigionieri, di cui 100 ufficiali e 3 generali. Altro che fanatismo di briganti. Fu una guerra che costò tanto sangue, che segnò il volto dei tirolesi con tracce profonde, che lasciò nel cuore dei combattenti ricordi ineffabili. Fu una vera guerra, anche se tutt'oggi riesce difficile fare una netta distinzione tra insorgenze e brigantaggio politico, tra rivolte spontanee di popolo condotte con le proprie forze e rivolte manovrate sotto mano dai ceti nobiliari ed ecclesiastici timorosi di dover rinunciare ai loro guadagni e alle loro prebende. Fu una vera guerra che coinvolse l'intero territorio tirolese da Innsbruck fino al Garda. Una delle battaglie più cruente nel Tirolo del Sud fu combattuta a Rovereto. Leggiamo negli annali della città: una battaglia furiosa viene combattuta in maggio 1809 tra le vie della città a colpi di cannone e di archibugio. Gli abitanti, abbandonando ogni attività lavorativa, non indugiano a mettersi in riparo sui monti circostanti. Per i francesi la situazione diventa presto drammatica e, per non cedere terreno un po' ovunque, si moltiplicano gli atti di eroismo in un confronto accanito e cruento. Spesso si arriva a guerreggiare all'arma bianca e con armi da botta. Il sangue scorre a fiumi. In 5 ore di combattimento sono complessivamente 1700 i soldati caduti di entrambe le parti tra morti e feriti. Nell'ospedale di Rovereto, stracolmo in ogni reparto di uomini che chiedono soccorso, la vista di tanti felici è perlomeno raccapricciante. Alle urla disperate dei soldati colpiti alla testa o al petto o mutilati agli arti fanno ecco i gemiti inarticolati di quanti hanno ormai sul volto il pallore della morte. Altrove si assiste alla barbara ferocia con cui i francesi, per vendetta, si scagliano contro i nemici austriaci e, sollevati, fatalmente caduti nelle loro mani. Sono episodi mostruosi, già visti in occasione della recente riconquista di Innsbruck. Sono eccessi che testimoniano qual grado di crudeltà può arrivare l'uomo allorché è in preda all'odio. Sì, fu una vera guerra. Una vera guerra in cui Hofer dimostrò e attuò fatti di eroismo di altezza straordinaria. Ma Hofer già da questo momento sa benissimo che non vincerà questa guerra. Vince le battaglie sia nel Tirolo del Nord che nel Tirolo del Sud, quindi da Innsbruck a Bolzano, ma arrivando fino a Trento e al Garda, di battaglie ne vince moltissime, ma non vincerà la guerra. Hofer pian piano arriva a questo convincimento. Perché? Perché queste compagnie di Schützen, che sono addestrate, guidate e controllate anche da Hofer, dopo ogni battaglia vinta, non essendo un esercito regolare, abbandonano il campo di battaglia e corrono a casa. Corrono a casa dove li aspetta il lavoro, corrono a casa dove aspettano le mogli, i figli, corrono a casa per la paura di ritorsioni da parte del nemico. Sono cose gravi. Quindi non è un esercito che dia continuità nella missione, è un esercito che c'è oggi ma domani non c'è più. Quindi il nemico che è battuto torna a rialzarsi e diventa sempre più forte ogni volta che si rialza, perché i suoi uomini aumentano sempre di più. Napoleone ne invia a carrozzate proprio di soldati e pezzi di artiglieria sempre più, ma soprattutto i francesi e i bavaresi imparano pian piano a fare la guerra in queste montagne, cosa che non avevano mai fatto. Avevano sempre combattuto in aperta campagna e le sconfitte con Hofer le hanno subite per questo, che lui era furbo, era abile, li chiamava nelle gole e così in agguati in cui non sfuggivano, pian piano hanno imparato anche quest'arte della guerra, quindi era impossibile per Hofer vincere, lui è arrivato presto a capirlo. Ma ecco, torna Dio. Dio è sempre presente in Hofer. Vicino a Hofer combatte un frate cappuccino, frate Barbarossa, che ha il crocifisso in una mano e la spada nell'altra. C'è una bella immagine di quel libro lì. E questo frate insiste: non preoccuparti, Dio ci ha assistito finora e continuerà sempre ad assistere. Per Dio, per l'imperatore e per la patria. Torna sempre il ritornello. Ad aggravare la situazione fu però la fatale, inattesa e sconcertante notizia della pace firmata a Vienna, Trattato di Schönbrunn, il 14 ottobre tra Francia ed Austria. In verità l'Austria, avendo ormai i francesi a Vienna, temeva per le sorti del suo stesso impero. Francesco cercò e ottenne la pace con Napoleone e nel trattato venne riconfermata la definitiva cessione del Tirolo alla Baviera. Questo il proclama del generale delle truppe francesi Eugenio Bonaparte al popolo tirolese ancora incredulo che l'Austria abbia firmato una pace senza averlo prima consultato. Tirolesi, la pace è conchiusa, la pace regna dovunque, in oggi, ovunque attorno a voi. Voi soli non godete ancora dei suoi benefici. Traviati da nemiche suggestioni, vi siete armati contro le nostre leggi, le avete rovesciate e raccogliete oggi i tristi frutti della vostra ribellione. Il terrore regna nelle vostre città, l'ozio e la miseria nelle vostre campagne, la discordia tra voi. Sua maestà l'imperatore e re, commosso dalla vostra deplorabile situazione e dalle testimonianze di pentimento che molti di voi hanno fatto pervenire sino al suo trono, ha espressamente acconsentito col trattato di pace a perdonarvi i vostri traviamenti. Testimonianza di pentimento, è certamente il clero che spinge verso una pace. Certo, Hofer ha accolto questa notizia del trattato di pace come una notizia drammatica, impossibile. Ha dovuto aspettare un altro proclama per convincersi che era vera. E a questo punto, anche come diceva Riccardo, l'amico Riccardo, incoraggiato dal clero, che oramai continua ad insistere giorno dopo giorno, fate la pace, perché continuano i francesi, continuano ad assaltare le case, bruciano i campi, uccidono vecchi e bambini, violentano le vostre donne. E davanti a una testimonianza di questo tipo, anche Hofer pare ormai obiettivamente votato a domandare al re di Baviera la pace, pur sapendo dell'amnistia. L'amnistia che viene data però con una certa difficoltà, perché il generale Vial nel Tirolo del Sud, perché opera tra Trento, Rovereto e il Garda, dice: sì, io rispetterò gli ordini del mio re, però state ben attenti che darò l'amnistia a tutti coloro che avranno deposto le armi, ma se trovo qualcuno in possesso di armi lo passerò per le armi. Quindi non c'erano più possibilità di discordia. Hofer sembra intenzionato a questo punto a chiedere la pace per tutto il suo popolo, ma c'è uno al suo fianco che glielo impedisce. Dice: tu hai incominciato, chi è questo tale? No, non possiamo saperlo. A me è venuto in mente di pensare a padre Barbarossa, che era fanatico, pensava a Dio ci protegge, eccetera, le solite cose, ma dice: tu hai cominciato questa guerra, tu la devi finire in altro modo. Questo fa il fucile che porto nelle mani è caricato per i francesi, ma anche per te. Quindi c'è una minaccia personale e c'è una minaccia anche per la famiglia di Hofer. Per questo Hofer torna a chiedere al suo popolo di sollevarsi ancora una volta, di non accettare il trattato di pace di Schönbrunn, e quindi sollevatevi ancora, io vi guido, ma stavolta sul sordi. I tirolesi sono sordi e richiamo, sono poche le compagnie che effettivamente hanno voglia ancora di continuare questa guerra, quindi è impossibile per Hofer continuare la battaglia da vincitore, quindi è sconfitto nel nord, è sconfitto nel sud, sono le prime sconfitte che Hofer ha nella sua breve avventura della guerra dell'anno 9. E tutto però va in Passeria, l'unico luogo oramai, perché essendosi rifiutato di obbedire al re di Baviera, ora teme per la propria vita, per la propria incolumità. L'unico luogo è la Passeria, la sua patria, là non troverà nessuno che faccia spia, invece non sarà così in seguito. E insomma va e si ripara in Passeria. Qui incita nuovamente l'insurrezione armata, ma perché torna a incitarli al sollevamento? Perché gli vengono a dire, ed è una cosa stranissima a questo punto della storia di Hofer, che tra l'imperatore Francesco e l'imperatore d'Austria c'è una rottura. Uno comincia a odiare l'altro, quindi l'imperatore d'Austria si solleverà nuovamente, deciderà di interrompere il trattato di pace e ci sarà una nuova guerra. No, non è possibile, vi dicevo, che sia nata una situazione del genere, a credere a una bugia così, perché proprio in questi giorni Napoleone a Parigi convoca tutti i sudditi e i familiari per confermare che è intenzionato a dividersi dal matrimonio con la Bournet per sposare la figlia di Francesco, Maria Luisa d'Austria, la granduchessa. Maria Luisa non è un trattato mal pensato. Due grandi potenze nella stessa Europa verrebbero a formare una superpotenza invincibile. Quindi Napoleone la pensava bene. E quindi non è possibile pensare che ci fosse astio, come viene detto qui. Molto probabilmente c'è ancora questa paura di rimanere ucciso in un'imboscata da parte di Hofer. Prego. A questo punto inizia il calvario di Hofer e inesorabilmente per l'eroe di tante battaglie arriverà al martirio. Hofer è nascosto nel suo paese, nel suo Sandhof, e passa alcuni giorni di dicembre in famiglia. Avvicinandosi il Natale, la Passeria è continuamente battuta da pattuglie di soldati armati che hanno l'ordine di catturare vivo o morto Hofer, sul quale pende una taglia di 1500 fiorini. Una cifra altissima che potrebbe allettare chiunque fosse a conoscenza del rifugio di Hofer. Il Sandwirt intuisce il pericolo e manda la famiglia, Gertrude e i cinque figli, presso amici nello Schneeberg. L'eroe si rifugia in alta montagna, in una capanna, Fandütte, a 1500 metri di altezza, a 4 ore di cammino da San Leonardo. Lo crede un rifugio irraggiungibile in questo tempo dell'anno, dove la neve altissima nasconde i sentieri e il cammino diventa arduo e pericoloso per chiunque. Lo accompagna e gli fa compagnia l'amico Cajetan Svet, qualche altro fidato amico, pochissimi in verità. Di tanto in tanto lo raggiungerà per portare cibo e notizie dal mondo. Hofer continua a sperare che Francesco sciolga i vincoli di pace con Napoleone. Se ciò si verificasse, sarebbe tra i primi ad accorrere in aiuto al suo imperatore. La moglie Gertrude non lo lascerà solo. Nel gennaio del 1810 si fa accompagnare all'isolata Malga insieme ai suoi cinque figli. Il marito però, sapendo che a valle girano molte spie ed è alto il pericolo che prima o poi venga scovato il rifugio, le impone di rimandare a valle 4 dei 5 figli. Alla Pfandhütte restano dunque Hofer, la moglie Gertrude, il figlio Giovanni e Cajetan Svet. I timori che tormentano Hofer si avverano. Qualcuno, una spia, avverte le truppe francesi del rifugio di Hofer. Ogni ricostruzione storica della vicenda ora non può che affidarsi a ipotesi mai provate con fatti di verità. Si racconta che un tale Raffl, uomo di pessima fama, girovagando nei paraggi e vedendo il fumo uscire dalla capanna, bussò alla porta e, invitato ad entrare, si trovò al cospetto di Hofer. Scesa a valle, raccontò a chi di dovere la vicenda per incassare la somma della taglia. Ma a nostro avviso si tratta di fantasie popolari. Forse il colpevole della spiata va cercato in uno degli stessi amici che erano a conoscenza del rifugio di Hofer. È uno dei tanti punti oscuri che rendono singolare e avvincente la storia dell'anno 9. Il barbone certamente venne dunque tradito da un conterraneo, capace di guidare le truppe francesi fino alla Malga che accoglieva i fuggitivi. La storia dice che le truppe francesi mossero dalla borgata di San Martino per braccare il rifugiato il 27 gennaio. L'impresa, agli occhi dei soldati, appare eccitante perché si tratta di catturare il leggendario Hofer. 900 soldati restano di guardia nei vari sentieri che portano a valle per evitare ogni sorta di fuga. Altri 600 puntano direttamente alla Malga senza preoccuparsi di agire in silenzio. Arrivati a destinazione per il forte trambusto, i quattro rifugiati si svegliano ma non fanno in tempo a portare resistenza. Cajetan stringe al suo petto il piccolo Hofer. Andreas protegge la moglie. Quando i soldati battono alla porta, Hofer apre e sotto la minaccia delle armi esclama: «Se cercate Hofer, sono io! Prendete me, fate di me ciò che dovete, risparmiate mia moglie, mio figlio e questo amico che non hanno colpe». In verità tutti saranno incatenati a mani e piedi, Giovannino non avrà nemmeno in tempo di indossare le scarpe, farà scalzo tutta la discesa a valle e per il congelamento resterà claudicante tutto il resto della vita. Sì, una discesa difficile e angosciante, tra pianti, lacrime vari, tra insulti e sputi da parte delle soldatesche sui prigionieri. Insomma, non si aspettava altro di arrivare che a valle. Perché ho detto prima che insomma è difficile pensare che le cose siano andate come gran parte dei nostri libri sono disposti a credere, che un mendicante in gennaio arrivasse fino a quell'altezza là. I sentieri erano difficilissimi, quindi secondo me era uno che conosceva la strada. Vede bene un autore che dice probabilmente uno che aveva un maso lì vicino e quindi era in grado di avere, e per essere certo questo tale, che forse non era quello che ha descritto, ha bussato veramente alla porta e si è trovato davanti Hofer. Ha cercato un po' di corromperlo dando un'elemosina più alta e più cospicua, dice, ma la moglie subito ha intravisto il pericolo, guarda che quello andrà a valle e ti denuncia, e infatti la denuncia è avvenuta. Ma sono quei fatti che insomma rimangono, ci sono delle zone oscure in tutte le vicende, soprattutto in queste in cui testimoni mancano e quindi non possiamo vedere oltre. Sappiamo di questa discesa a valle, il giorno dopo sono subito a Bolzano, sono a Merano, a Merano c'è il primo interrogatorio. Io sto all'orario che mi è stato imposto, sono le 19, e io sarei anche arrivato. Se qualcuno però, magari vorrei vedere per alzata di mano, se qualcuno vuole, ha intenzione di entrare in un dibattito su qualcosa, bene. No, ma dopo, voglio andare in fretta allora per te dare lo spazio. Allora, tornano a valle e il giorno dopo sono a Merano, c'è un breve interrogatorio, poi arrivano a Bolzano, velocemente perché c'è un ordine imperiale, c'è l'ordine Napoleone che li vorrebbe a Parigi, perché? Perché questo processo deve essere di esempio per tutti i sudditi del mio grande impero, quindi dall'Italia alla Spagna al Tirolo, e lo vorrebbe, non andrà a Parigi, si fermerà a Mantova dopo 5 giorni di discesa molto veloce. Mi dimenticavo di dirvi che a Bolzano è stata liberata la moglie e il figlioletto, quindi hanno continuato il viaggio in carro chiuso, sorvegliati dai gendarmi, sempre naturalmente incatenati, e viaggiavano nell'oscurità, ma hanno fatto in fretta perché il giorno 5, come già vi ho detto, sono arrivati a Mantova. Ci sono delle tappe interessanti, una a Egna e una ad Ala. Ma se qualcuno magari vuol sapere, salto perché altrimenti il racconto. Se arriva a Mantova viene subito, arriva il 5, l'11 c'è un dispaccio di Napoleone. Io volevo il prigioniero a Parigi, ma visto che è arrivato a Mantova, si è cercato di indire subito una commissione militare che giudichi il prigioniero, che lo condanni a morte e che la fucilazione avvenga nel giro di 24 ore. Quindi era chiaro, insomma, non voleva. Perché l'ha fatto rimanere a Mantova? Perché Mantova era una fortezza molto, molto grande e molto conosciuta in tutta Europa. Mantova, la patria di Virgilio, Mantova, c'è la dinastia di Gonzaga, che in tutto il Rinascimento è stato un po' di diplomazia in tutta Europa, quindi anche Mantova è un posto di privilegio nella storia, quindi fare un processo anche a Mantova era utilissimo. Ma è un processo farsa. Perché? Perché Basevi, l'avvocato Basevi, Gioacchino, è stato chiamato d'ufficio perché Hofer non voleva il difensore. Ma non ha fatto in tempo a parlare con Hofer. Quindi l'unica cosa che Hofer è riuscito a dire al suo difensore è: mi hanno trovato in alta montagna con il fucile. Ma era un fucile da caccia, non era neanche un fucile da combattimento. E quindi questo poteva rappresentare un punto d'appiglio per l'unico, forse, per l'avvocato per cercare una difesa. La tradizione dice che questo avvocato ha fatto di tutto per difenderlo. Addirittura metà erano 9 i giurati, tutti ufficiali francesi, che ascoltavano la ringa. Qualcuno, forse la metà addirittura, erano propensi a quasi a liberarlo. Ma sono i fiori della fantasia, perché essendo tutti ufficiali dell'esercito napoleonico, nessuno può dar contro l'imposizione imperiale. A quel punto lì dovevano condannarlo e metterlo a morte. Infatti la condanna, il processo avviene il 19, tra il 18 e il 19. La notte alle ore 2 del mattino viene comunicato ad Hofer che sarà fucilato alle ore 9 e gli si dà appena il tempo di scrivere una lettera che è toccante e io vorrei che la leggesse il nostro ricordo. Caro fratello, è volontà di Dio che io passi qui a Mantova dalla vita all'eternità. Dio mi concederà la grazia di poter giungere colà dove la mia anima potrà essere felice in eterno, dove pregherò Dio per tutti. Anche tutti i buoni amici che vivono lì devono pregare per me, per togliermi dalle fiamme ardenti, se mai dovessi ancora scontare le pene del purgatorio. La mia carissima moglie mi dovrà far dire le messe a San Martino, nel santuario del preziosissimo sangue. Alla messa dovranno essere invitati gli abitanti delle due parrocchie e agli amici dovranno essere serviti, al pranzo funebre, nell'osteria di sotto, minestra e carne più mezza misura di vino. Il denaro che avevo con me l'ho diviso tra i poveri. Tu prendi di quel che resta in passiria quando ti occorre, forse per pagare gli eventuali creditori. La lettera finisce così: statemi tutti bene in vita, finché non ci ritroveremo in cielo, dove loderemo Dio sino alla fine. Tutti gli abitanti della Passiria e i miei conoscenti mi ricordino nelle loro preghiere. Che mia moglie non si affliga troppo, io pregherò per tutti voi. Addio, mondo infame. La morte mi sembra tanto facile che gli occhi non mi si inumidiscono di pianto. Scritto alle 5 del mattino, e alle 9, con l'aiuto di tutti i santi, me ne partirò verso Dio. Mantova, 20 febbraio 1810. Il tuo in vita amato, Andreas Hofer, di Sand, in Passeria. Lettera toccante, credo. Sì, credo che Hofer meriti questo anche altro. Personaggio straordinario. Infatti è per questo che è molto amato a Mantova. Questa lettera che è stata letta era indirizzata all'amico Pügler, che lui incontrò a Egna nel trasferimento da Bolzano a Mantova. Una sera ci sono fermati per far riposare i cavalli, eccetera, i soldati, e questo gli donò un libro di preghiere, libro che la tradizione dice lo aiutò molto nei giorni della prigionia scontati a Mantova, ma soprattutto nelle ore che precedettero la sua morte, e in molte pitture che sono fatte di Hofer prima della fucilazione lì nel campo di Cittadella di Porto, lo si rappresenta con questo libro in mano e col crocifisso nell'altro mano. Lui l'ha indirizzato a questo amico temendo che non arrivasse la moglie, invece l'amico l'ha fatta per venire alla moglie, e questa lettera la potete leggere al museo in Val Parsiria, al museo Hofer. Ecco, questi sono gli avvenimenti. La morte di Hofer è un altro momento toccante, perché questi fucilieri che stanno per sparargli non ardiscono a premere il grilletto, e lui li incita: mirate bene al cuore, in modo che io muoia veramente. Sono passi che, naturalmente, torno a dire, i fiori della leggenda hanno reso drammatico, allo stesso molto coinvolgente il momento. Ecco, Hofer è questo qui come l'ho visto io. I pochi passi che sono stati letti servono per dichiarare. Vuoi finire tu, no? Sì, perché fondamentalmente, appunto, perché mi sembra una bella tua espressione questa. Certo, adesso la leggiamo, perché abbiamo passato il tempo utile, quindi vi ringrazio della vostra attenzione e le lascio finire il caro amico che mi ha accompagnato. Hofer, tra gli uomini del suo tempo, era un grande già prima che la leggenda ne rivestisse la figura di fantastici fiori, già prima che la venerazione popolare si trasformasse in una forma di superstizione paganeggiante. In molte circostanze lo chiamarono santo. Non ha costruito città né fondati imperi, non ha scoperto terre né macchine nuove. Eppure il suo nome è in bella evidenza nell'epoca in cui visse, e benché la sua breve giornata si sia svolta in condizioni alquanto diverse dalla nostra, egli c'è ancora di esempio. Gli uomini come lui ci esortano a lottare per il bene e per la giustizia, ci provano non a parole ma a fatti che a questo mondo c'è qualcosa che vale di più del denaro, più della forza e della furbizia, e che contro questo qualcosa non c'è potere che tenga, né orgoglio né grandezza. Grazie. Grazie. Ecco, ci sono degli interventi, ecco, se volete. Anch'io. Torno naturalmente a ripetere che abbiamo alcuni libri anche da dare in dono alla biblioteca dopo, perché c'è un altro pacco, e se qualcuno è interessato ad averlo nella biblioteca, io ho piacere che venga portata. Sì. Non lo so, io ho problemi con gli occhi, lo so. Sì. Io voglio aggiungere due o tre cose. Sì. Mi chiamo anche Hofer, non sono parente, non sono amico di Andrea Hofer. Voglio dire, Asburgo è un ponte della Svizzera. Sì. E una volta il vescovo di Basilea ha detto: Dio Signore, tieniti bene sulla tua poltrona, se no Rudolfo sta sul suo posto. Dunque, gli Asburghi non erano santi. No. Poi è quello che erano illuminati, c'è tutta una corrente di illuminati. Sì. E poi loro erano amministratori, diciamo, mi manca la parola giusta, e erano conosciuti nel parte del lago di Costanza a nord della Svizzera, e facevano in continuo delle guerre. Sì. E così c'era l'Engadina Creek. Sì. Engadina è della nel Grishon, sì, parte del Grishon, sì. E lì li hanno maltrattati, e nel 1499 quelli del Grishon hanno attaccato tutta la Val Venosta, certo, e saccheggiato. Certo. E cosa ha fatto l'imperatore Massimiliano, poi che ha perso il suo esercito di cavalieri? Ha detto: voi tirolesi, autodifendetevi. Certamente, la Costituzione del 1500. Sì, l'Ansibel. Esatto. Sì. E quello cosa voleva dire? Che nel Tirolo non esisteva esercito, no, c'erano le compagnie, in ogni paese c'era la chiesa, e andavano ad allenarsi la domenica e il sabato, sì, esatto. C'era la chiesa, l'albergo e il poligono. E il poligono di Tiro, sì. Bravo. E poi c'era la Spanish Erbfolgekrieg, la guerra ereditaria della Spagna nel 1709, mi sembra, sì. E lì i bavaresi sono marciati a Monaco. Sì. E pensavano di essere ancora i grandi guerrieri. Invece no. E la Baviera ha ristrutturato tutto, avevano un'armata, sì, sì, sì, avanzata, e così naturalmente hanno preso dei calci nel culo. La ringrazio di questa testimonianza. No, sì. Un attimo, ancora. E poi naturalmente che c'erano quelle guardie, milizia si può dire, perché esercito non esisteva, c'erano le compagnie. E quelle naturalmente quando è diventato bavarese, dovevano arruolarsi nell'esercito bavarese. L'abbiamo detto prima, sì, sì. Solo che tanti ci sono disertati, tanti sono spariti. Sono scappati. E poi Andreas Hof nel dicembre 1809 non era più il grande eroe. No. Era probabilmente l'uomo più odiato in tutto il Tirolo. E pensi una cosa, che proprio nel mese di bruciato dai masi, bruciate, sì, nelle case, violentate le donne, proprio nel mese di dicembre lui si è presentato con due messi al viceré Eugenio, francese, dicendogli: io sarei anche disposto alla resa, purché ci sia l'amnistia per tutti. E Eugenio gli ha detto, addirittura è arrivato a dirgli: guarda, ti do tutto quello che vuoi, se vuoi andare addirittura ti do un salvacondotto per riparare in Austria dal tuo imperatore, così avrai sicuro la vita tu e la famiglia. Hofer non ha accettato perché è minacciato continuamente di morte insieme alla famiglia, e quindi è un eroe in tutti i sensi, sapeva di andare alla morte, perché una volta che rifiuti un salvacondotto dal viceré Eugenio e vieni catturato, sei sicuro che la commissione militare ti mette a morte. E lui lo sapeva benissimo. Signora. Ma a proposito di questo, sì, io non conosco bene l'insurrezione tirolese, sì, di Hofer, però conosco molto bene l'insurrezione antinapoleonica toscana del 1799, sì, il Viva Maria. Sì. Ora, nel Viva Maria la storia fu più o meno simile, cioè successi iniziali nel, sì, 1799, poi dopo il trattato di Lunéville i francesi tornarono e ripresero il controllo, sì, del Granducato di Toscana. Sì. I capi militari toscani, Willy Chini, Giovanni Prozzi e Giovan Battista Bergotti, generali dell'esercito aretino, furono portati a Firenze e, sì, sottoposti a processo, a corte marziale. Furono prosciolti in istruttoria. Dopo tre settimane furono riconosciuti come capi nemici, i generali avevano combattuto, avevano perso, furono rilasciati con gli onori militari. Ora, come mai invece Hofer è stato condannato a morte da un tribunale militare, quindi non politico? Militare. E quindi doveva giudicarlo come comandante nemico. Sì. Normalmente un comandante nemico si condanna a morte se ci sono degli episodi tipo Norimberga, cioè crimini di guerra. L'episodio maggiore che ha portato alla morte di Hofer è stato, negli atti del processo sta scritto, è stato trovato in alta montagna, quando tutti i tirolesi avevano giurato la deposizione delle armi, è stato trovato in possesso di un fucile. Questo è uno delle... La seconda cosa importantissima è che dopo aver mandato i due messi al re Eugenio, dicendo: io vi consegno tutte le armi, i miei tirolesi, perché si è data l'amnistia a tutti, dopo è tornato a chiedere un'insurrezione. Quindi ha mancato la parola a un viceré. E quindi per questi fatti lui sapeva benissimo che se fosse caduto in mano al nemico, non c'era scampo. Ma l'imputazione... Napoleone poi era molto arrabbiato, aveva battuto i francesi per due volte a Innsbruck. Li aveva cacciati da Tirolo nel 1805 quando ha cominciato a scendere in Italia. Cioè è stato battuto più volte, lui voleva dare un esempio di forza non solo in Italia ma in tutto il suo impero. Per questo voleva addirittura, non l'ho fermato, ma lo voleva a Parigi, dove là avrebbe fatto una cosa clamorosa per dimostrare alla Spagna soprattutto, perché alla Spagna in quel momento lì c'erano delle turbulenze spaventose, nessuno lo voleva più, quindi c'erano tutti questi attentati, voleva dare una dimostrazione di forza e quindi ha ordinato, le ho letto il dispaccio, si è formata la commissione militare ed è stata la terza commissione militare dell'armata francese in Italia, si è formata da ufficiali francesi, si è giudicato immediatamente, condannato e messo a morte nel giro di 24 ore. Era l'ordine testuale di Napoleone. Ma da un punto di vista giuridico, qual era l'imputazione? Ah, questo giuridico in quel momento. In quel momento. L'avvocato non ha più avuto la parola. Perché è girato in là, non meglio. Che ha scritto le sue testimonianze molti anni dopo. Dice, io non ho mai parlato con l'imputato. Quindi io mi sono fidato delle parole che mi hanno detto. Quindi lui ha portato l'oltranza, ha giocato sul fatto che era sposato, che aveva cinque figli, che aveva combattuto per la libertà, per tutte quelle cose lì, ma è stato tutto inutile. Perché la sentenza era decretata già in anticipo dalla commissione giudiziaria. Quindi un processo e l'ha messo a morte, Dopo ci sono, questo è importante, perché non ho fatto in tempo a parlarne in precedenza. Sarebbe bello riuscire a capire perché Francesco, l'imperatore, abbia abbandonato Volterra Mantova fino al 1823. Dunque, Mantova è stata ripresa dai francesi nel 1814. Ofere è rimasto sotterrato al cimitero di... Cioè, ripresa dagli austriaci nel 1814. Sì, è stata ripresa, ma non l'ha portato via questo corpo. Ed è questo uno dei atti oscuri della vicenda. Perché? Visto che Francesco nel 1815 è tornato a Mantova, è andato sulla tomba, c'è un poeta... Buonasera, la ringrazio nuovamente, la ringrazio. Sì. C'è un poeta tedesco a Weissenberg che dice, l'imperatore fa naturalmente mettere le parole in bocca a Hofer, perché l'imperatore è andato sulla tomba, che era in cittadella dove è stato ucciso, c'è una chiesa, San Michele, ogni chiesa aveva il suo cimitero, quindi è stato messo in questo cimitero, Hofer. È andato sulla tomba e ha pregato per porre un fiore e il poeta fa dire a Hofer, che interrogato dall'imperatore, che cosa vuoi Hofer ancora? E lui dice, sì, voglio una palata di terra del Tirolo. Non è lui che parla, sono tutti tirolesi, vogliono il corpo, lo vogliono. E non gliel'ha mai dato, perché il parroco, stia attento a una questione bellissima. Questo cimitero a un certo momento viene trattato morto, perché lì deve passarci una ferrovia. L'allungano, prima arrivava a Porto Mantovano che lì vicino, poi va. Allora cosa fanno? Tirano un bel tratto di terra su tutto, scompaiono tutte le tombe. Io vorrei pensare caldamente che le volte portate a Innsbruck siano quelle di Hofer. Perché Hans Georg Auer, che era un cacciatore delle Alpi, nel 1823 è andato a rubare il corpo in quel cimitero, ma c'è andato di notte illuminato con le torce. Hanno fatto scavare il becchino che forse si ricordava del punto in cui Hofer era andato su. Ma nessuno ci può dire, perché non ha mai fatto il cerchio col carbonio o non so, o il DNA, quindi io voglio sperare Amico Pecchino in modo si sia ricordato in modo autentico e veritiero del luogo in cui scavare, perché queste ossa che hanno riportato la luce, che dopo un medico le ha aggiustate per farle diventare, sono finite dopo subito, nel giro di pochi anni, sono andate a venire a Innsbruck nel mausoleo di Massimiliano. Io spero che siano quelle, sì, ma è definito l'imperatore Francesco come un imperatore buono. Io penso che più che altro fosse un imperatore molto politico e molto furbo. Ora, lui aveva questo concetto del Sacro Romano Impero, dell'impero unitario, eccetera, e lui voleva il Tirolo nell'Austria. Non so quanto Hofer invece non volesse un Tirolo indipendente. Ma negli ultimi anni, negli ultimi mesi effettivamente della battaglia, è vero, negli ultimi mesi della battaglia è arrivato a scrivere che mi accontenterei di un governo, anche se non austriaco, anche bavarese, non c'era, nonostante, di un governo in cui fossero riconosciuti tutti i privilegi e i diritti che avevo preso. Lui l'ha specificato. C'è l'autonomia tirolese soltanto. Un'autonomia, però io parlo di imperatore buono perché in tutte le battaglie che hanno tenuto i tirolesi prima dell'introduzione dell'anno 9, tutti i combattenti hanno avuto delle pensioni, dei riconoscimenti, era un imperatore buono anche in questo senso, riconosceva la forza del Tirolo. Però penso che se l'imperatore Francesco non avesse mollato Hofer e avesse, nell'ambito del trattato con Napoleone, matrimonio della figlia Maria Luisa, eccetera, avesse messo dentro anche la salvezza di Hofer, Hofer si sarebbe io salvato. Io credo che non probabilmente è stato un danno. Il mio convincimento è che comunque forse chi comandava era Napoleone non avrebbe mai accettato, infatti tutta la fretta che ha avuto in 5 giorni è arrivato a Mantova, 5 giorni di corsa. La velocità del processo e della fucilazione sono tutte legate alla nascita. Lui aveva paura che l'imperatore Francesco facesse pressione su Napoleone per il fatto che i due stavano andando a morire, non gliel'ha impedito in quel modo lì, con la faccia. Chiedo scusa, io tolgo la parola al professore, se no assistiamo a un'altra conferenza. No, io mi scuso con le due nostre. Chiedo scusa, due parole che disturbo io, che sono nulla e nessuno. A nome del Circolo Virgiliano, che ho avuto per tanti anni l'onore di rappresentare, vorrei solo dire il perché è nato questo libro. Se qualcuno vuole una dedica. Il libro è nato per opera del Circolo Virgiliano di Bolzano e in quanto mantovani abbiamo creduto opportuno fare un'opera del genere in occasione del 200° anniversario di opera. La cosa ha avuto un grande successo, devo dire, più di lingua tedesca che non di lingua italiana, perché portai il libro ad Alto Adige, il quale fu così bravo da non mettere neanche una parola del libro. L'abbiamo presentato ufficialmente, invitando il giornale, non si è visto nessuno, per cui ringrazio il professor Gozzi di aver lavorato con intensità a fare un'opera straordinaria. Per curiosità, il disegno che c'è in prima pagina e sulla copertina è un carissimo amico di infanzia mio che abita a Milano ed è uno dei più grandi illustratori del giorno d'oggi mondiale. Appena gli ho parlato ha mandato immediatamente questa cosa, che più bella di così non poteva essere, per cui è con un po' di orgoglio che siamo felici di aver presentato alla città e ai cittadini quest'opera qua, presentata in modo straordinario dall'autore e dal collaboratore Giancarlo Riccardo. Grazie, scusatemi. Grazie a voi.